Noi compiamo gli anni, vero? E ogni anno ne compiamo, vero? Sì, ma interessa il corpo più che l'anima, perché come l'anima si staccherà dal corpo, non esiste più il calendario. Non si invecchia, l'anima non è mai invecchiata. Lo ricordate Valentino? Cieco? Eppure così fresco di vita. Così bella memoria. Così i progetti. Oh, l'anima non invecchia. Quando fui in Maremma per ordine di Pio X, secondo, a Campiglia Marittima, ebbi la gioia di incontrare l'unico che io ho incontrato, vecchio di 100 anni e 3 mesi. Mi dissero le pronipoti, era bisnonno. Il nostro bisnonno è sempre stato attaccato alla religione e avendo sentito da noi che c'è il missionario, vorrebbe confessarsi. E io vengo volentieri, anche per curiosità, perché non l'ho mai visto, un uomo di 100 anni e 3 mesi. E come arrivai in casa, mi disse una delle pronipoti, adesso padre, io vado in camera. Chiudo le imposte, chiudo i vetri, poi vedrà che mi metto vicino al bisnonno e le faccio le presentazioni e le insegno come si fa a parlare al mio bisnonno, perché è sordo come una campana e non ci vede. E io entro in camera, mi sembrava di vedere una statua di legno, la pelle in carta pecorita, proprio come carta pecora. Capelli pochissimi, bianchi. Chiude, poi si inginocchia vicino al guanciale del bisnonno e dice: Nonno! Ma gridava, c'è qui il missionario! Missionario, lui ripeteva, missionario? Vuoi confessarti? Oh, sì, dicevano, ma cavando le parole da un pozzo, che aveva 100 anni e 3 mesi. Adesso, padre, gridi pure anche lei, che noi andiamo tutti in piazza e non sentiamo niente, e lo confessi il nostro nonno. Noi andiamo in piazza, faccia così anche lei. E mi sono anch'io inginocchiato lì per avere la bocca vicino alle sue orecchie. E ho cominciato anch'io, nonno! E visto che non dava cenno, ancora più forte, nonno! Sono missionario. Oh, missionario. E io sono. Sta per dirmi il nome. Io tutto orecchio. Io ho capito Attalo. E dico: Oh, che nome strano! Mai sentito, nonno! Ah, io mi chiamo Attalo. E lei, missionario, sa chi è Santo Attalo? No, nonno, confesso la mia ignoranza. Mi meraviglio, dice, mi meraviglio che non sappia chi è il mio patrono. È il patrono di Pistoia. Io poi ho saputo che non era Attalo il vescovo di Pistoia, ma Atto. Io però così avevo capito, Attalo, Sant'Atto, è il patrono di Pistoia. Ha incominciato a confessarsi. Sono stato con lui circa 20 minuti. Quello che mi ha detto è sepolto nel più grande silenzio, come tutti sapete. Però quello che ho sperimentato posso dirvelo senza tradire nessun segreto. Io ho pensato immediatamente che quello che avevo studiato sui testi di filosofia e di teologia era un niente sull'immortalità dell'anima. Un ragazzo, un seminarista, un ragazzo ben educato, ben formato, non poteva confessarsi meglio. Tutti i particolari, e poi ogni tanto si fermava, tirava il fiato e diceva: Padre, ha capito bene? Sì, nonno, ho capito bene, ha proprio capito bene, perché voleva confessarsi bene, scrupoloso, a 100 anni e 3 mesi. cieco completamente, sordastro quasi del tutto e immobile come una statua di legno, tutta carolita. Che freschezza di memoria, che particolari, che diligenza nell'esposizione della sua vita morale. E alla fine mi fa anche questa congratulazione. Padre, se passerà di Toscana l'anno prossimo, è vero che verrà a trovare Atto? Dico, sì, nonno, se sto bene. Temeva che io non stessi mica bene, avevo 32 anni, lui ne aveva 103 mesi. Se starà bene, padre, se avrà vita, verrà a trovarmi? Ma mica diceva, se sarò ancora al mondo io, ma neanche per sogno, neanche l'ipotesi di morire. Aveva paura che morissi io e che l'anno prossimo non potessi andarlo a trovare se passavo di Toscana. Se passerà di Toscana, padre, verrà a trovarmi? Oh, che Dio le doni salute, così verrà a trovarmi anche l'anno prossimo. Grazie tante, ho detto. Pensate che distanza c'era tra la mia età e la sua, ed era preoccupato della mia salute, mica della sua. Lui era sicuro che ormai, fatto il valico dei 100, poteva andare anche ai 1000. Guardate, in 20 minuti, mai una sillaba che dicesse che lui era vecchio, io sono vecchio, ormai sono vicino a morire. Ma che? Neanche per sogno, poverino, era così buono che era preoccupato che morissi io, non si sa mai. Giovani, incidenti stradali, tante altre cose. Guardate che freschezza, dico, mio Dio, avevo studiato in Aristotele, in Tommaso d'Aquino, nel Vangelo, studiato che l'anima dell'uomo non invecchia e non muore, ma lì mi trovavo davanti alla prova più evidente. Quando ci fanno gli auguri di buon compleanno, constatano, è una constatazione che noi, man mano che procediamo negli anni, diventiamo più possessori della vita, ci impossessiamo sempre di più ed è giusto fare festa. Ma il corpo non lo dobbiamo guardare, l'abbiamo simile a quello degli animali, con una differenza però bellissima, che noi abbiamo il corpo verticale, gli animali, uccelli e pesci compresi, tutti orizzontali. L'uomo solo ha un volto che guarda le stelle. Noi, in questo corpo che ha i giorni contati, fragile, che la morte agguanterà per disfarlo, abbiamo un'anima. Il buon compleanno interessa l'anima, perché per quella il compleanno significa vita che si rinnova. E con la morte l'anima non sarà nemmanco toccata dalla morte. E da quel momento in poi non si conteranno più né i mesi né gli anni. Dio non ha né mesi né anni. Dio è sempre stato, è e sarà. È così di noi. Il calendario è come una cornice. Il corpo è come la cornice, il quadro d'autore è l'anima nostra. E il quadro d'autore può far bella figura anche se manca la cornice. E i nostri morti ce li sentiamo sempre dappresso, anche se la cornice è sepolta. L'anima non viene sepolta. L'anima non compirà più gli anni. Perché immersa in Dio il calendario non esiste più. L'orologio che ci misura tutto, anche i minuti, i secondi, basta, cesserà il suo compito. Passato il tempo della prova, noi siamo immersi nelle ferie di Dio, immersi nella eternità, la quale non si può misurare. Ecco perché nei nostri comportamenti così umani c'è sempre dentro la spia, c'è sempre dentro una luce, magari piccola come una spia, che ti dice tu sei immortale, tu sei grande, Tu hai dentro di te una realtà sconfinata, molto più profonda che gli abissi del mare e dell'oceano. Tu hai dentro di te l'opera di Dio, immenso, assoluto, eterno, perfettissimo, massimo, ottimo, tutto. Questo è bello.